Gabriella. Mi sento un buffo triste. Mi sento un buffo triste. Buffetta, chi sei buffetta? Giamari! Ehi, fanfagna, Giamari! Ehi, fanfagna! Mangiato di arancimela, li conosci? Gli arancimela li conosci? Mare di occhiata! Dove lo chef? Giamari, dove lo chef? No chef, dove l'è? Capito? No chef, dove? Ho detto, dove lo chef? Oh, Giamari, stamattina l'ho visto, stiamo, adesso è mezzo del mattino, super tetto. Capito mi hai? Giamari! Dimmi che lo chef stamattina, alle 7:30 super tetto era. Era? Capito mi hai? Era. Tocca! Giamari! Dammi così, no! Dammi così! Giamari! Tocca! Ehi, mi senti? Ehi, ti sento già! Ma ti seguo, il cicalino! Non è un cicalino io! Ah, non sei tu! Sarà coso, come si chiama? Boh, non mi ricordo adesso. Quello di ieri. Ebbene, ma mi so sei, Luca? Trombi. Dici da trombi e trullalla. Questa macchina accende la 27, una voce, grazie. Senti là che ci riga, boh. E aspetta che la accendo, devo prenderlo. Aspetta. Attento, occhio di gufo. Ehi, è un gufo di gufo, è me. La preme già. No, oggi no. Insomma, vabbè, c'ho la mal di gola ancora, tosse. E stamattina ho comprato lo sciroppo. Ho preso anche quello che hai detto tu, lo spray, occhi gola. Quello è buono. Aspetta che metto la 27, da. Che l'hai tutti? Sentito mi hai. Cosa? Accendo la 27. Scoppiato. E da Luca non ce l'ha qua la 27, vero Luca? No, io sono sdraiato adesso, sono Maria. Ci ho fatto la doccia calda a calda. Infatti non le volevo manco fare perché non mi sento, non sono al 100%, comunque vabbè. Sono lavato e mi sono messo dentro il letto. Non ho capito niente lui. Provocano sempre l'altro, Sono a letto. Cadè dentro il letto adesso. E ti ha chiesto la 27, ce l'hai, Luca. È in cameretta, grazie, però c'è freddo lì. E non la puoi trasportare con la prugna. No, Leone, prugno, il filo del capo è giusto, si ferma lì. Non te lo puoi buttare giusto, non sono una prugna. Chissà, non va a pulire in chi, mi metto come un camera da letto. Boh, magari tu mai. Provvisorio, no, quando capita così, capisci? Ah, ma da fastidio anche a me che lì si guarda la TV, non dimentichi a me, già con questo ti do fastidio, facciamo baracchino, lascia perdere. Vabbè, Giamari, non ce ne ha lui 27. Ehi, lasciali qua, dai, rimane qua. E ora abbiamo i due a destra e una a sinistra e la Caponte e la Camorente. Ehi, rimane qua, dai, a Cerluca. Già rientro dopo, rientro io, ok? Ehi, va bene. Lungo, e beh, coricato sì. Ehi, è in campagna, oggi, dai. niente arrostita, c'è stato vento, tranquillo e sereno. E niente. Ho mangiato anche poco alla fine, ho mangiato molto. C'ho questo mal di gola un po', dai, mi raschia un po' la gola e la tosse. Però se come arrivo a casa, mangio qualcosina e poi mi prendo lo sciroppo e mi zigocco. Oggi a pranzo ci avevo pasta al forno, gamberetti, melanzana alla parmigiana, funghi, cassarura, aglio e prezzemolo, al forno, aglio e prezzemolo, tutto il forno oggi, anche i gamberetti. Capito mia, poi ci avevo anche le paste, pasticcini. Caruso sì. No, grazie, che ha consegnato un computer, un amico, dai, e gli stavo dando, gli stavo dicendo di, come si dice, di stare attento perché mi hanno stracciato il tastiero d'accensione, io ho dovuto saldare i fili sottili sottili, a canto per la giuvata, proprio sicuro di riuscito, adesso accende, prima non accendeva. Gli ho detto di mettere un po' di attack nei bordi in modo tale che il tastiero rimanga fermo. Ah, ehi. No, mi stavo guardando la TV poco fa, che c'era il film di Rocky Balboa, quel film che fa Adriana! E dove? Alla TV, è finito poco fa. Vabbè, Maria sta guardando Italia 1, molto bello, impegnativo. Un bel cadavere. Ma carità. Cos'è un bel cadavere? Oh, la... Cos'è? La sponda cadavere, un film di animazione. Praticamente è un cartone di animazione, animato, certo. La sposa cadavere, vuoi con voi contribuire anche tu, Grazia? No, io la sposa la voglio viva, vigorosa, bella, bella proporzionata, se possibilmente bella con le guanciotte rosse. Mi fa cadavere, cadavere, è pieno di cadaveri. Ma io te tu la vuoi così, che da voi non reggi, cosa te ne fai? Proprio ti figuri, boh. E allora cosa ne fai di un cadavere, di un russo? No, meglio sposa la questione. Almeno uno può palpeggiarsi, la pena, la fai girare, Ho capito. Va bene, dai, già sei di tipo una forchetta, dai, anche tu. Paotti, ho già cantato il campo usato, lo sera, è pieno. È vero. E allora ci vuole polpa. Fa un canisso, è meglio che chiama a mano. Cosa ne dici tu? Non si dicono queste cose. E cosa ho detto? Mano, perché le mani non si più? Ma niente, è macchina, gli comprendi, vabbè, ma con le mani fai tantissime cose, non è che fai quello che si pensa al maligno, Lo so, ma è così, è gai su conto. Vendo serbatoio 100 euro per qualsiasi cosa contattassi. Parla solo Fiale. Ciao Graziano. Ciao Graziano, continua così, sì, te stesso, naturale. Cagone. Ehi, ciao Marina, ben sentita, salutoni anche da parte di Paoletta, si sta facendo la doccia, si sta rinfrescando. Altrettanto. Ehi, bravo, sta facendo quel bambino. Cuoricino, sofferente, ma già è buono, non mi lamento. Se no te ne do io le supposte, passi qua, te le do e poi gliele impedisci. sì, non sono pratica, grazie, gliele prometterei tu le supposte. Vieni tu. Allora già vengo io. Bene, vanno la taglia sì. A te già ti andava a essere in line. Ehi, la sei, siamo lì, lì. Bingo! Ti ricordi quel film di tedeschi? Il tedesco gli dia bingo. Quel film che lo chiamavano Apache. Chi? Quel film di nazisti. La vita è d'americano. Bingo! E da poi bingo l'ha fatto con siete pronti e la bandiera tedesca. Non te lo ricordo. No. E l'ha fatto il marchio tedesco. A chi gliel'aveva ricattato? Invece l'ha fuggito vicino. E gli ha fatto il marchio in fronte, gli ha fatto. Con gli aguzzetti. E chi di prima, no, quando l'era ricattato, l'era venendo in giro. E l'ha detto, come si dice da voi in America? Bingo! E bingo che l'ha fatto, bingo. Bingo! Bingo, bingo! E chi ce l'ha poi gli avrà dato questo bingo? E bingo che l'ha dato? Mi ha guato, non l'hai visto quel film? Era bello! Tanto non mi ricordo quell'attore americano che era. Apache li chiamava, ma che tutti gli italiani si ammazzavano, li facevano lo scalpo. La culacetta? Uno così, da poi veniva uno che era maniaco dei giocatori di baseball, con la massa da baseball. A uno l'ha avuto a colpi di massa a capo, ma la pallina l'ha pigliata. Addirittura? Perché non gli ha detto che armi ci avevano un altro gruppo di tedeschi che stavano cercando a loro, perché loro gli dovevano fare un'imboscata, capito? E poi non gli ha detto il punto dove li potevano trovare per fargli l'imboscata. Ho capito. E poi ne è rimasto uno, l'ultimo, con tutto questo. L'ha cacciato tutto quanto in giro di 3 secondi, ma fa ammazzarlo. E infatti l'hanno lasciato libero. Era un bel film, là. L'ho visto 2 volte quel film. Era sempre bello guardarlo qui. E beh, oggi cosa hai fatto? Niente di che, in campagna, al calduccio. Aspetta che mi ha bucato luci, Gilda. Ehi, già sono qui. Ma la mabucca. Frustalo, frustalo. Vai, vai. Picchia, picchia. Strano che non sentesse un pittorio. Allora, grazie, a dopo, tanto troppo mi accompagna, mi ci guardiamo Tom e Jerry e poi accendo il baracchino a casa, dai, mi metto a letto, faccio 2 chiacchiere così dal baracchino. Eia, eia, mi sembra di averlo sentito a Vittorio, ciao Vittorio! Ciao Vittorio, mi senti? Non mi intendi. Vittorio, a Luca non lo senti. Oggi non ti sento, oggi lo sento malissimo. A chi, grazie, a chi non hai sentito? Ah, Vittorio, lo sento malissimo, deve essere in qualche altro posto. Ah, io lo sento a tratti lo stesso. Infatti l'ho sentito a tratti, poi un sacco di QRI, e ci stava un po'. Giammari! Giammari hanno detto che si aspettava a liberare io. Cosa ha detto? Boh. Ehi, è vero. Cosa ha mangiato, grazie, a oggi? Pasta al forno. Gamberi in forno. Anche melanzane in forno. Fatta la pistaglia, la parmigiana. Scusa, passatemi, ma mi sveglia. E cosa ce l'hai? I funghi, fate il forno, aglio e prezzemolo. La frutta, i dolci, fate, pasticcini. E nient'altro. Cosa di umano? La stai di mamma va via, glicemia è dannicato, 232. Guarda che io stamattina ne ho mangiato, a posto di mangiarmi due fette più scottate come faccio di subito. Ma dice, beh, ora mi mangio una fetta di panettone, Guruzzi. Mi ho mangiato quella fetta di panettone e me l'ho misurata 2 ore dopo, 232 gradi. Perché il panettone contiene molti zuccheri, grazie. C'è l'uva passa che è molto dolce, ma c'è un po' di intelligenza, La mamma lo usa già, mamma ha superato il peso suo, l'ha superato, poi ha problemi di pressione, poi un casino, mamma è può chiamare, comunque la glicemia alta, tu sai benissimo che il diabete è un giramento di scatole perché ti dà molti problemi. C'è una regolata, ma se non se la dà, chi se rimane in secca, tu di cui a te? No, io me l'ho mangiato un pezzo l'altro giorno, ma una fetta a figli, solo un birombe di uva bassa, e un pezzo, la metà di una fetta di pandoro, però con la crema dentro. E puzzino già perché me l'ha fatta la sala di figli. E niente, allora amici me la misura, vi dico, prima tre. No, ma io a mangiare non è che sto mangiando bene, penso è sempre quello che ho preso, capito? Ne ho preso 69, 60, 62, 73, adesso non so se ho preso 73, devo bizzare. Allora, dispensate dare una regolata, no? Senza abusarne, tutte che voi fate, mangiate, no? E sbaglio, pensa che quando l'ha ricoverata, quanti vostri ridi? Insomma, la glicemia che era alta, fa 100 così, no? Cosa ha fatto mio fratello intelligente? L'ha rigato lo zucchero, a chi mamma voleva un caffè con lo zucchero? Pensa all'intelligenza di Gesù, prima di arrivare una cosa del genere, chiedi prima, no? Meno male ce ne siamo accorti, meno male, se no guai. No, io il caffè già me l'ho bevuto, però lo zucchero me ne metto la metà del cucchiaino, quasi piccoli per il cucchiaino, capito? Non è che me ne pongo 4 che cucchiaino, la punta di un cucchiaino piccolo, perché le pastigliette me le hanno sconsigliate, anche se ho più zuccherate, insomma. Infatti non ne ho preso più, se no prima ne prendevo le pastigliette. E infatti io con le pastigliette ho provato a metterne 3 e misurare la glicemia e va via la glicemia alta. Ah, pure un freddo mi è giusto, vacca. Esatto. Dite come si deve fare la luce. Sta di me e sta attento a non pigliare colpi d'aria. Quando mi sono cominciato a urlare, sto con un freddo, insomma, per carità, va. Che cosa brutta, vabbè, dai. Spara soccorso, come tutte le cose, purtroppo deve fare soccorso. Io già sto attento. Ma devi stare attento anche dopo, a non pigliarti la risalita. Vedi, vedi che stanno insegnando per le bastante luci di maglietta. Devi stare più riservato. No, è tempo di abbuffonarci a uscire leggeri. Io l'altro giorno c'avevo una maglietta ma anche corta di sotto. La felpa è un giubbottino, quella antifelpa. Fetita, ero congelato, perché non mi ho messo l'altro che è più grosso e pesante. Mi ho messo quello leggero, il giubbotto, quell'antivento. Ma ero un ghiacciolo. Guarda, poi i brividi di freddo non sono, guarda, troppo brutti, troppo, troppo, mamma mia. Poi la notte non riesci a dormire, anche se ti metti la borsa dell'acqua calda, però, mi senti? No, luce, vero fredda luce, manco 40 manti di calcini. Scordatelo, già lo so, già l'ho provato io, il brivido freddo. Non ti cadi manco se ti dati. A chi lo prende 30 luci brutti. Vabbè, io mi sono messo vicino alla marina che lì già sta bene, grazie a Dio. Ma uno quando si sente male c'ha freddo dentro le ossa. Che ci si intende male brutti. A me quando va via, mi senti che mi intendi a male, mi va da luce. E intendi il gioco delle denti, si tremava la sola la bocca. Io sta cansando, io mi c'è scusa. E allora, Ed ha fatto la battutina, ciao Cla. Ciao, grazie. Io per non curare il raffreddore faccio una bronchite allucinante. Non riesci manco a farmi da, figurati tu. Bisogna stare molto attenti. E io ero 10 giorni prendendo l'antibiotico e le prendo proprio per quello. Bisogna stare attenti. Io stesso. Campagna, giudendi, vendi, e ho preso una bella bronchita. Sono già 2-3 giorni così. Infatti io sono uscito per niente. Capito, mia Luca? Non sta cansando. Chi si scusa, allontanati la marina. Sì, claro, prima sto scherzando, mi sento male, mi sento un bel male. Comunque ciao. Poi c'è un mal di gola, mal di testa, c'è tutto molto male qua, da rotta ma fruppi questa volta. È brutto, i brividi di freddo poi dentro le ossa, non i pochi bedini. Qua sono stato 2 minuti senza dormire, niente. Se vado a metà per un'ora, stanno ti ci dati. Male, cosa brutta. Poi sai cosa succede qua? Prendo una bustina anche di occhi, per esempio, no? Anche una tachipirina, mi vado su là, che se ti camici. Perché ti scarica, capito? No, io lui non sto prendendo niente, sto prendendo solo l'antifiammatorio che mi ha dato il medico una volta al giorno. E poi ogni 24 ore sto prendendo l'antibiotico. E se non mi passa più. Capito? Però bisogna stare attenti. Tappa, disiesci, perché a me mi ha fregato così. Mi ha fregato così. Va bene, dai, sono entrato a salutarvi. Già vi sto ascoltando e sono al calduccio anche io. Sono col portatilino, sono al calduccio. Continuate, a dopo. Riprendi, grazie. Ehi, ciao Claudio, buon ascolto. Vai Luca. Ma stai fumando, no Cla? No, io fai fumare, mamma tu sì. No. Ma io non sto più fumando come prima. Il pacchetto mi dura 2 giorni, 2 giorni e mezzo. Però non è questione di sigaretta, proprio ero un po' influenzato. Ho lasciato stare, non ho preso niente, capito? Come saluta addosso, si addosso. E poi le placche nella gola. Sono andato a controllo, ho detto c'ho una bronchite. E quindi mi ha dato prima l'antinfiammatorio e poi l'antibiotico. No, forse fumando. Nulla. Lo so, un giramento di scatola qua. Ma io poco fa quando sono rientrato stavo bene, infatti ho detto a Maria, mi sa che le docce non me ne faccio, mi lavo a pezzi. E niente, poi ho visto che stavo bene, ma sicuramente chissù. Perché purtroppo sembra così in casa, anche se c'è la stufa accesa, secondo dove ti metti c'è un po' di freddo. E devo stare attento a quello. E vabbè, ormai giù ha fatto. Tra un po' ceno, mi prendo una tachipirina e poi dai, mi faccio accompagnare. Tanto sono sicuro che sudo che sette camicie. Ma devi sudare tu, se non sudi è un casino, capito? Devi sudare per forza, perché così sfoga e stai meglio. E lo stesso anch'io, stamattina ho fatto la doccia e è andata a beggio, mi è venuto brividi di freddo, eppure c'è solo la bronchite, però c'è in circolo questa cosa, e quindi bisogna, infatti mangio pure il pigiamone, la felpa, e sono seduto a guardarmi la televisione. Va bene, dai, riprendi tu, grazie. Ciao Lugarie, già ci aggiorniamo, saluta mia Marina, riprendi io, grazie. Ehi, di questa è Mara, E io ho fatto anche il vaccino anti-influenzale, i vivi all'ex manicomio, però se non sta attento mi butti pure a me, a me me l'ha detto il medico. E infatti sto la bruttissima, vabbè che la mia è cronica. Però gli antibiotici me li ha fatti prendere insieme con le bustine. Vabbè. No, io ho compreso uno sciroppo, adesso vediamo, dai. Stanotte siamo di coricarmi, che è Bisalvol ed è molto buono. Vediamo un po'. Qual è il suo corso? Andiamo. Ragazzi, guardiamo questo coso qua, poi posso accompagnare, mi compro bene. E me ne vado a casa. Beh, devi stare un bel attento. Io ma il biglietto 3 volte la broncopolmonite, ma come sapia io mi fa via la broncopolmonite? Quando mi sono con i sei umani, ma è scoperato subito. E va via la broncopolmonite. E io non ho fatto i polmoni. Non bisogna scherzare. Ma io mi ricordo tempo addietro, ma ti parlo che ero Gio Vincello, ci scivo in moto con la febbre a 38 e mezzo anche mi. E uno o due busti, forse magari adesso ne sto pagando le conseguenze. Perché adesso io minima cosa, mal di testa, subito mi raffreddore, prima cosa che mai. Oh, sì, mi veniva la febbre, mi durava una settimana tonda a tonda. Né più né meno, una settimana. Adesso, mal di gola mi viene spesso. La tosse no, ma raffreddore mi dura, mi dura un bel. Bisogna stare attenti un bel. A me la salima dice di sì. Lei deve fare le cose piano, piano, piano, senza forzarsi, lentamente, non deve fare nessun minimo sforzo. Dunque, mi raccomando, stia attento. Se si mette a fare qualche cosetta piano piano senza fare scuro, vabbè, e cosa vuoi, non mi sempre bruciato la vita, e vabbè, però qualsiasi cosa, e vabbè, ma io sono un buco male, adesso che vorrei andare a 4, sai cos'è, che ce ne freghiamo, qui sta Claudio, lo stesso anche lui, però poi si è accorto che non stava bene alla fine, sto prendendo le medicine, ma molte volte te ne freghi, poi sei con raffreddore, stai fuori, le correnti, suemi, non devi stare in giro, poi anche se hai mal di gola, a me guarda, mal di gola mi fa venire tutto, come mi arriva mal di gola di quello fastidioso, che non riesci manca a bere mezzo bicchiere d'acqua, allora arrivi tutto, l'influenza, e poi raffreddore, mal di testa, e chi più ne ha più ne metta, e poi il freddo alle ossa. A che fasi dici da qui? Magari da una bronchite cioè, ti passi alla polmonite come sta fatta a me e io non sappia mica e va via la broncopolmonite. Ma tu stai troppo in casa e te ne piace la broncopolmonite? Appunto, eri la dimigliata, dillo a me, in casa me la dimigliata. Non lo so. Vedi, quando tossisco ho già un po' di mal di testa, pensa quando tossisco mi aumenta ancora di più. Però non posso prendere niente perché devo cenare. Capito, vabbè, dai. Sorvoliamo, va, che mi già passa, dai. Ci può passare, se no. Ehi, allora io saluto mi posso dire. No, mi ha mangiato un bel pezzo. Si passa al forno. Due gamberetti. E un pezzettino di pane con la melanzana. E basta. E non ho mangiato altro. Però me lo sento suo stomaco. E io non posso mangiare un pezzo. Per via del problema che ho anche all'intestino, capito? Sai che di tu tutti ti fai a te, a me? Sei macuno, a ti nasi. Cosa? Cosa hai detto? Carotti ti fai a me? Ah, sei ma continuando io. Carotti mi posso un te, il te. Ah, avevo preso a te, da tinnandi. Ti faccio la brittella di fascio. No, ho detto che Carotti non c'è, ne mi faccio il te, capito? Perché mi sento un po' pesantuccio. Anche se non era grande grande quel pezzo di pasta al forno, però si secca. Scusa, ci hai mangiato una fetta di panettone, mai la devi mi dare panettone, mai la glicemia da bassa. No, domani fetta biscottata, niente panettone. Si sapeva più mal di capo, buio. Ed era dalla diabetina. Vabbè. Così c'è la... Il diabete è maledetto, è maledetto. Ti fa venire di tutto e di più, guarda. Sì, a mia madre le dice la diabete e ha cominciato l'ugori, i reni, poi è venuto le riambilicare, poi non mi ha messo cosa le dice, insomma un sacco di malati, e infatti ha tutto in muta. Mamma ci aveva 52 anni quando è morta, era giovane. E... purtroppo lui la diabete si porta un sacco di malanni. E così è mamma, c'ha l'ernia ombelicale, poi c'ha il pacemaker, poi vabbè il diabete certo. Pressione alta, sempre alta, rossa, mi segnano la macchinetta. No, arancione, arancione così così, dai, può anche andare. Mentre a me segna verde perché è perfetta, no? Giusto per farti un esempio. Poi c'è lì rossa. Dice adesso che questo cardiologo di Porto Torres si gli ha dato un'altra cura, vediamo un po', però lei si deve dare una regolata e stare attenta a quello che mangia, alla carne, alla roba, i cacchivala sono troppo dolci, ogni tanto si mangia qualche pasta, forse anche due, ed è convinta che è tornata come la prima, ma non è così. Lei deve stare a regime, perché sennò alla fine io ho fatto il massimo, credimi, lo so io quello che ho passato. E beh, quello lo deve vedere lei che è grande già, e anche se glielo dici, tu gliela vedi che ti risvegli, e anche quando magari gli misuri la glicemia, vedi che via alta, tu pregala. E la fai rimanere male, vedi che quando vedi che tu la fai rimanere male, allora già si rigureggia. Guarda, grazie, anche se glielo dico, mi risponde male e mi dice che non ha mangiato niente, perciò non ha senso. E cosa sa, sta ragione a duri di la glicemia, a uno non sa se non mangi, come ti sei disegni giù. Come mai allora c'è la glicemia alta? E il signore dice, beh, allora da oggi poi avanti di una borsa, si chiude tutti i nostri denti e si dirà a fare un calcio, e se avviene cosa ti mangi? E vediamo se la glicemia si ce l'hai giusta. Ma non ti preoccupare che già va a comprargli l'altro, quello che c'è in casa, e lì si nasconde, tranquillo, già ce l'ha. Allora, il diabetico è bugiardo, bugiardo. È sicuro, il diabetico non è a fucilità, il diabetico ti dice battersi, diabetico, non fai come si richiede, fai a capo giusto o capo di più, il diabetico se ne sbatte la matta, non gliene frega niente, capito? Oh, lui ti dà come si può, se tu li vuoi che fai, vai, se no fa a capo giusto. Cazzo a catamare da voi sei sempre giù, capito? Il diabetico non li sta rischio. Quindi peggio parecchio. Cosa vuoi dire? Ti credi tizia? Io grazie, ripeto, ne dove l'ho fatto, poi mamma stava benissimo, era calata di peso, mangiava le cose pesate, poi se ne è fregata, ha iniziato con i piattoni, quello posso mangiare un pezzettino, se ne frega proprio di tutto, di tutti. Se ne compra le pasta, se ne compra, ed è convinta che facendosi la puntura che se la può mangiare, ma no. perché gli ha detto il diabetologo, lì una volta che mangia, che fa la puntura della notte, non deve toccare più niente, zero, nulla, manco una caramella. Poi domani mattina si prende la pastiglia e fa colazione, come ha sempre fatto, perché no, fa tutto, tutta di testa sua. Vabbè, a me non me ne frega niente, io, guarda, lo so di quello che ho passato, non mi interessa, poi giù baeta. Andava la pugliesa, fino a 96, non si la va, giù baeta, no, io, non sono uno mangione, anzi, ma contro me non me ne ha fucinuta a sera a mangiare. Ma quanti mesi mi posso un po' di risognati e un tocco a putto un mattino. È una frutta. E non mi interessa. No, non me ne viene a me mi frutti, fammi fare. Oh, sì, cucino, sì, perché in casa ci sono ragazze, mia moglie. Però non è che all'assaggio per queste cose, di andare bene, tutte queste cose. Però non mi cambio anche di qui sui posti. Sì, ma lì sta sempre questo, con queste fette biscottate, dice che c'è sempre fame, si mangia anche la mela, quello sì, eh. Però ho notato che ultimamente è alta, oltre 200, e non va bene. Lei nega, dice che non ho mangiato niente, dice mi ho mangiato un po' di quello e basta. Poi c'era un panettone, io non ne ho mangiato, manco un uva passa ho mangiato di quel panettone. A me piace solo quell'uva passa, per farti capire, no? L'altro panettone non ne mangia, mangia solo pandoro. E dice che lì il panettone non ne ha toccato, chi se l'ha mangiato, il cane? Dai, è fauraggia, è bugiarda. Lì quando c'ha sempre fame, grazia, è inutile, c'ha sempre fame. Ehi, come mio fratello, mia sorella è uscita con il marito, ha detto la sua sorella sta mangiando un mezzo panettone, cade turrata, a mezz'ora si è degattato, sotto la veranda, a bocca aperta, a canto per la vasia e fricca, non so che canto va via la griceria, e che cosa è fatto, ma come la vasia ripulita, è andata dritta al mobile, ha aperto e ci mancava mezzo panettone si è mangiato. Oh, il furbetto! Sì, non se ne poteva ripilare i muri, se la si buttava a brotto soccorso. Come tutte le cose, la sigaretta lo stesso, è così, bisogna darsi una regolata su tutto. Allora io prima, qualche anno fa, prima di stare con Marina, ero ogni giorno mi patatine fritte, uova fritte, con le cipolle che io ne vado matto, mamma mia, va, sto a pensarci, me le farei anche adesso, però non posso. Bastoncini, sofficini, vabbè, poi di zocca, quando mi è arrivato poi quel famoso mal di pancia forte, che ho dovuto chiamare l'ambulanza alle 2 di notte a farmi portare all'ospedale. Oh, finito! Vuol dire la mia parte me l'ho mangiata, perché ho esagerato, come tutte le cose, la bevanda, le sigarette, la roba dolce, tutto, la roba grassa, bisogna darsi una regolata. Ah, a me già non mi piace, né le zofficine, sì, lo assaggio una volta ogni morto di pappa, quando di pappa ho letto a fare i bicchini. Anche il bastoncini figli, no, no è che mi piace. Sì, lo assaggio uno, però non è che me ne mangio tre o quattro, capi? Lo posso solo assaggiare, però a piacermi, non mi piace. Le patate fritte mi piacciono, ma non è che ci vado matto. L'altro giorno le ha fatte, ha detto mio figlio le ha saputo un po' di ketchup e me ne ho messo una decina, ci ho messo un po' di ketchup, così. E me le ho mangiate, ma una decina però, 10 pezzettini, e boh. Ah, che tu catch di Bruce Lee? Il catch, quello rosso. Bisogna dire la Claudia, c'è visto di Bruce Lee, o di Chen. vabbè, su, uè, si mette a brillare tutti i manini, vinna galli. La beva maionese, un sacco di zubette, va, le noci, tutti i strappi, e tutti i carità, gli stati buoni tutti i imbriati. Ebbene. sono tutta a tratti, Vittorio, dove sei? Aspetta che c'è la gente, avanti Giammari. Allora non mi senti? Ma stava parlando Vittorio, non l'hai sentito, lo sentivo tutta a tratti. Non lo sento lui, no. Non lo sento. Buonasera, Chialucca. Ciao Giammari. Vita Graziano, si mangia anche il ketchup, sarebbe il pomodoro di Bruce Lee. Sì, tu ci mangi a buono, a buono, ci verrà mai. Ma comunque ho notato, grazie, tu sei come mamma, non sto scherzando, noto che tu sei sempre, come si dice, sta sempre maggiucchiando, no? Un pezzo di durroni, un pezzo di ghiddu, un pezzo di panettone, tu sei come mamma, né più né meno. Viaggi no che da là, è un'ora fa i tendimi. Però lo so tramodulare. Ehi, senti Giovia. Ehi, ti ho sentito, avanti Giovari, quello ci ha visto di, c'ha il dito veloce, avanti. Sono tu, grazie. Giovari, senti, ti ho parlato sopra io adesso, riprendi Giovari. È una cosa incredibile, non vedi l'ora di cacciare il microfono. Ma così dice, boh, di sì, la zondì, boh. Ehi, faccio il microfono incorporato. Per carità, gatto. Però nel bosco vivo qua vanno bene contigo, gatto. Boh, per carità. Ohia. Bene, uè. Tu fai proprio solitario che sei sempre magnelli. Oh, non so così, a rimorillo, Luca, di su giuffa giuffa, me lo conservo, per un'altra occasione. Giuffa giuffa, se mai niente. Visto che era la festa tua oggi, da, da, approfitta, giuffa, te lo va. No, da, me lo lascio, all'altro giorno, da, dammi la giumagna tu, la fradi, giuffa giuffa. Io mangio mai due cioccolatini ancora. Due, di chi sei donde? Non mi fa vedere cioccolata, rimane me la mangia così così, no, che mi mangio un piatto e la dico così, prendo un fornetto. Oh, fanno un finito, e tu avammi l'hai ammettato. Io me la mangia lui ancora. Cazzo. Perché che ha giubito ancora maniera di occhi, allora me la giubita di un burro, non una, due. Faccio una trappola di 20 per 30 di cioccolato fondente, gioca ancora a siriganna. Magna, magna, magna almeno le 20 più grande. Luca, è di che tu brutto, vedi? Ha già cantato la Marina. Gli ha regalato la principale, ma ne ha un bel, guarda, ne ho mangiato sì o no, di quello piccolo però, di quelle, di quello che ha lo taglia a strisce, diciamo, a pezzi piccoli. Poi c'ha quello fondente e quello a quadrati grandi, ma non me ne ha fuggito, non mi interessa. Ce n'è un bel. Chita te l'ha passata, grazia. Guarda, c'era, lo dico, c'era una palla, almeno 2 kg di cioccolato sono di più, una busta piena di cioccolati. Ma io, ripeto, non ne ho mangiato, anzi, sì, 2 pezzi di quello al latte, basta. Poi, quello ho finito, non mi interessa. Io mangio una burra, una fetta del panettone, come si dice, dopo pranzo, con l'uva passa, solo un passa c'era in quel panettone. E mi è arrivato un pezzo, fai saluti, saluti che ti vorrei su tutto. E beh Giovanni, tu la glicemia come ce l'hai? La glicemia sta andando bene, 146, 148. Adesso è quasi normale, capito? Prima no, prima era un braccio. Anche mangiuto la sambacchia, mangiuto, ci sei la mia parata e poi mi devo regolare io, capito? No, non posto ormai, fino a 84 la mia va bene. Dovete regolarvi, Gio Mario, inutile. È inutile, che poi sai cosa succede? Che è un casino, poi si sta male, devi andare all'ospedale, ma nessuno si dà una regolata. Viva tranquillo e sereno, sai, ogni volta deve stare all'ospedale, capito? Ah, se mia madre l'altra volta l'avevo portata lì per il fatto che c'aveva la pressione alta, più alta, alta, tipo la minima a 100 e più, la massima è un bel alta comunque, 170, 180. E la messa male, siamo andati là, è un casino. E si deve dare una regolata, è la roba da mangiare, la roba grassa soprattutto. È normale questo, da quello che si mangia, allora, beh, è così. Il riso, per dire, non vuole mangiare il riso, non vuole mangiare pane, non vuole mangiare pasta. Ma insomma, ho detto, ma cosa devo mangiare? Se non ci arresto a voi, divento muro prima dell'ora. Così che io sto mangiando tutto, sto mangiando tutta la mia vita. Non mi sto privando di niente. Ecco, ma anche il pasto, la domenica, certe volte anche due pasti mi mangio, ti puoi immaginare dopo pranzo. Però ne stavo abusando ed era sempre un po' alta, e allora dopo Natale ho cominciato a passare, a lavorarmi, per cui devo andare sempre con queste regole. Mangio tutto, ma mangio anche di meno, devo mangiare molto di meno, capito? Tutto lì, perché io non ho la frutta, la mangio il pane, e perché non la devo mangiare il pane, di tutto che la frutta mangio solo la frutta, il pane niente. Se uno si sa regolare, non si c'è niente. Ecco, però certe volte ne abusiamo e allora la questione è così. Cazzo, io sono privo di cosa? Il matrimonio, sia ai compleanni. Non ci vado proprio per non mangiare, perché se vado mangio non faccio male io, perché non ci riesco a controllarmi in quei momenti, in quelle cose così. E allora ci vado e sono più tranquillo. Vediamo un po' cosa dice dottor Graziano, avanti, dottor Ketch, oggi ti chiama da oggi in poi, dottor Ketch, avanti. Eia, eia, ormai a mangiare il mangiato, oh, assaggio il tuo, ma, non mangiare il mangiato da me. Finisce solo quello che devo mangiare, mi faccio mangiato, questo è così. Però dai, che mi dice, non ha più di pane, né di pasta, così mi dice, però lei mi brea, perché poche parole già va bene, secondo lui. La vicina è insopportabile, ma un po' la notte mi ha detto può alzina, però del resto già può andare. Sì, però allora ti dico un'altra cosa, mamma insaccati non ne può mangiare. Noto che ultimamente sono stato sempre prendendo una mortadella, ma di che vuoi sapere questa mortadella? Che ne prendi tu? Ti fai il tuo fratello. Sì. Dì la verità che fate. Mortadella e fontina. E ho notato che lui si mangia il panino, non li può mangiare di cose, no, ne può mangiare. Poi ha anche questa pressione alta. Deve darsi una regola, chi la devi mangiare, guarda, il meno possibile. Meno mangia e meglio è, perché se continua così, guarda, se ce lo va a finire male. E te lo posso garantire, perché già che c'è questa pressione alta, e lì è già da lì è messa male. No, io la pressione me la dici da già. Io ho sempre, sempre mi nascosto. Prima di tutto, domani io vado a mangiarmi qualcosa, mi prendo la tachipirina, cioè no, chi andiamo a fare, c'ho troppo freddo, dai, riprendete voi. Vittorio, non si sente Gian Maria oggi perché c'è il bottino nel portatile, capito? Ora c'ho io. Aspetta, Gian Maria che sta parlando di Vittorio, non lo sento. Non lo sento Vittorio, no, non lo sento. E infatti mi stavo dicendo che tu non riesci a sentirlo che sei con il bottino, capito? Purtroppo è così. Sì, a voi due vi sento bene, perfetti. Lui non lo sento, sicché lo so, forse lo so tramodulo quando sta parlando lì perché non lo sento io. Capito? E poi sta già a parlare la sua famiglia. Capito, Vittorio? Capito. Non riesco a sentirti. Così è sempre a casa a te, Vittorio. E fatti a casa che c'è freddo fuori, non ci uscire. Eia, e beh, Gian Maria, e cosa devi fare io? Cosa hai fatto di me fuori, giusta? Lui gli rende, mi sa che la zotta sopra. E vabbè, anche quello a parte, sia a macro che a che cosa, boh, a me nuda, non me ricordo nuda, si saranno più bene, mi ha detto, che tanto si che popolo, era bovera la mia spara. Gio Mari, allora, Graziano è hot, capito, hot. Ah, così è, sta bene. Come se allora, banana, grazie. No, aveva proprio bisogno di Vittorio, E vabbè, va, io rimango in quelli che si parlate fra di voi, sennò è un macello, Quando c'è uno che non si intende e la sopramodulazione non andava bene. Dai, mi guardo la TV, dai, è solo qua in ascolto. Puzza! E io il regalo te l'ho mandato, te l'ascolto, non te l'ho mandato stamattina. Ehi, adatto, fammi il canale, grazie, da così mi prendo la pastiglia. Ci sentiamo dopo, rimango in ascolto pure io, dai. Casomai dopo vi saluto e me ne vado a casa, perché non sto bene, dai, ciao. Ci sentiamo dopo. Ehi, vabbè, Vittorio, aspetta che fa dell'ufficio, la passo e torno. Ehi, dipende di cosa mi dici un papà se mi ricevi giù così. E va bene. Gian Maria, sì. Vittorio.